Sabato 22 novembre 2008, presso il CSOA Il Mulino di Lugano, il gruppo di ricerca Ippolita, nell'ambito della serata proposta dal Laboratorio di Informatica Popolare, ha presentato il libro Luci ed Ombre di Google. All'indirizzo lib.noblogs.org, nella sezione Appunti, sono disponibili i materiali utilizzati durante la serata. Registrazione a cura di Indimedia Svizzera Italiana. Dunque, io sono Carlo del gruppo di ricerca Ippolita. Abbiamo fatto un libro, un paio di libri, di cui l'ultimo, che è quello per cui sono qui, è un libro che si intitola Luci e ombre di Google. Prima si intitolava The Dark Side of Google, però l'editore non ha ritenuto, diciamo, che il titolo fosse in linea con la loro casa editrice. L'editore è Feltrinelli, è italiano. E la particolarità del libro sono due. La prima è che è un libro che si può scaricare liberamente da internet perché è un libro copyleft e si può fotocopiare, eccetera, eccetera. Quindi questo vuol dire che, a differenza dei libri normali, almeno in Italia, non so com'è la legislazione in Svizzera, ma a differenza dei libri normali, non è reato penale diffonderlo senza diritto d'autore. Ok, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che è stato scritto in maniera collaborativa, cioè non c'è un autore, infatti il libro è di Ippolita, che è un'identità collettiva, ma ci sono tanti autori e questi autori hanno scritto insieme per un percorso che dura da anni. Diciamo, questo libro è durato circa un anno e mezzo la scrittura. Abbiamo scritto più o meno sempre online, che vuol dire che abbiamo uno strumento wiki, non so se tutti sapete cos'è, diciamo tipo Wikipedia, in cui ognuno scrive la sua parte, si fanno delle revisioni, che tutti vedono quello che scrivono gli altri. Diciamo, si cerca di mettere insieme le riunioni che si fanno per decidere come andiamo avanti con la scrittura del libro, quali sono le cose importanti e così via. E il fatto che uno sta anche a casa sua o al lavoro e nel frattempo fa altro, tipo scrive insieme. Okay. Quindi queste sono le due particolarità. Perché parliamo di Google? Ma un po' per caso. La cosa fondamentale è che nessuno è particolarmente contrario a Google di noi. Semplicemente 2 o 3 anni fa, noi ci occupiamo di tecnologie, di uso consapevole delle tecnologie, di tecnologie appropriate. Abbiamo pensato che la cosa più grossa che c'era in giro, la cosa che un po' più fastidiosa tra tutta questa onda delle nuove tecnologie, di tutto quello che ci sta dietro, quello che ci dava più fastidio era il fatto che ci fosse questo gigante Google, che sembrava, almeno ai nostri occhi, era il punto d'accesso privilegiato di tutti gli utenti, della stragrande maggioranza degli utenti, a tutto quello che chiamiamo internet. E quindi ci siamo messi a studiare questa cosa qua. Il libro è molto, cioè, c'è una storia del motore di ricerca, ci sono anche delle parti estremamente, un po' tecniche, in cui si parla degli algoritmi, di come è possibile che tu metti un nome sulla pagina di Google e ti tira fuori in un secondo, una frazione di secondo, 1.300.000 risultati, no? Cioè, cosa succede lì dietro? È un po' una ricerca di capire che cosa c'è dietro le macchine, ok? Le slide che ho qui sono una presentazione che abbiamo fatto qualche settimana fa all'Università di Bicocca a Milano, e c'era un grande evento, ci hanno invitato e quindi noi siamo andati perché ci pagavano, e dunque siamo andati fondamentalmente. Però l'argomento è un argomento che ci interessa veramente, quello su cui sono queste slide, perché diciamo, la questione all'interno di tutto il lato oscuro di Google, se vogliamo chiamarlo così. C'è una questione che ci sta a cuore, che è quella della profilazione, dove profilazione vuol dire tante cose. Ciao. Adesso non so voi che cosa vi interessa veramente sapere, per cui se avete letto il libro, se non l'avete letto, se vi interessa parlare di qualcosa in particolare, io farei così. Faccio velocemente vedere le cose che abbiamo preparato. Se c'è qualcosa che non capite o non vi interessa particolarmente perché lo sapete già, mi dite va avanti o fermati e spiega meglio, e poi dopo ne parliamo tutti insieme e, insomma, ne chiacchieriamo un attimo, ok? Vai. Allora, dunque, lato scuro di Google, va bene. Allora, questo eravamo all'università e quindi siccome siamo in un periodo di particolari agitazioni ci sembrava giusto sottolineare, ma va bene. Questo è il libro che si scarica da questo sito, anzi dovete aggiungere /Google e scaricate il libro, ok? Oppure ve lo comprate, ma mi dicono che comunque non c'è, per cui non lo comprate, lo scaricate. Allora, cos'è la profilazione? La profilazione è un insieme delle tecniche che identificano il profilo di un utente, abitudini, preferenze, genere, età, contatti, posizione geografica e molte altre cose ancora. La profilazione è quello che succede normalmente quando voi entrate su internet, in qualsiasi sito internet, quindi qui stiamo parlando di Google, ma questo vale per qualsiasi servizio che c'è online. Perché Google si occupa di profilare le persone? Profilare, per intenderci, potrebbe essere nella vita reale, non online, quello che succede al supermercato con la carta dei punti. Quello è un tipo di profilazione. Quelli del supermercato sanno che cosa comprate e gli serve per fare pubblicità mirata. Google lo fa in una maniera molto più raffinata, ok? Cioè, la profilazione per Google è il suo business, è quello che, lo fa guadagnare effettivamente, e l'idea generale che sta dietro a Google, da questo punto di vista, è riuscire ad arrivare ad ogni persona, non facendo, cioè, a te piacciono i gatti, non ti farò la pubblicità del cibo per cani, ti farò la pubblicità del cibo per gatti, magari di gatti siamesi, sapendo che tu fai ricerche sui gatti siamesi. Ok, questa è l'idea che sta dietro alla profilazione, perché gli serve. Come fanno ad arrivare? Quindi questo significa che Google guadagna tanto più quanto le sue macchine, il suo sistema tecnologico è in grado di capire, a seconda delle ricerche che uno fa, che cosa gli interessa. Ok, quindi comprensione dell'utente, capire che cosa cerca l'utente. Ah, naturalmente questo Google vende spazi pubblicitari sul web, vuol dire che non è che Google ti vende qualche cosa. A Google interessa quello che tu cerchi, perché vende spazi pubblicitari a terzi. Ok? Poniamo che io voglio ho un'agenzia di viaggi e la mia agenzia di viaggi fa Lugano Ponte Tresa, faccio per dire. A me non interessa fare pubblicità a uno che abita a Los Angeles, ok? Google è capace di dare la possibilità a quello che ha quel ristretto target di utenti, cioè proprio solo quei 10, quei 100, quei 1000, di arrivare solo a loro. Quindi rispetto alla pubblicità che conoscevamo prima, cioè immaginate il giornale, apri il giornale, c'hai due paginate di pubblicità, sai che quella pubblicità costa un fracco di soldi, perché è naturale che su mass media, diciamo, quella pubblicità lì è molto costosa perché è spalmata su un numero enorme di utenti. Invece Google è in grado di arrivare esattamente alle persone interessate. Che tipi di profilazione esistono? Esplicita e implicita. Esplicita è quando mettete i vostri dati sull'account, ok? Vi viene chiaro. Entrate su un servizio internet qualsiasi e mettete i vostri dati per ricevere, oppure facciamo su Google, volete iscrivervi a Google News, volete sapere quel tal giornale, la vostra testata preferita, volete che vi mandi una mail ogni volta nella vostra casella di Gmail, perché vi interessa avere questa notizia. Quindi gli date i vostri dati, questa è profilazione esplicita. E l'obiettivo è creare dei gruppi omogenei, per età, per genere, eccetera, perché naturalmente nella profilazione esplicita c'è scritto che cosa fai nella vita e puoi scegliere oppure dire altro tipicamente, oppure quanti anni hai, quindi si creano dei gruppi omogenei. La profilazione implicita invece deriva estrae i dati attraverso il monitoraggio dell'utente. Cosa vuol dire? Che qualsiasi azione che io faccio su internet viene controllata in maniera molto stretta, ma nemmeno perché c'è qualcuno che vuole controllarla, ma perché lo strumento stesso genera controllo. Cioè i flussi di dati che passano possono essere copiati da qualche altra parte. Per cui se io entro su internet da Lugano e c'è qualcuno che mi dà un accesso per entrare, si sa che io sono entrato da Lugano, ok? E questi dati io non glielo ho detto io che vengo da Lugano, ma si può sapere molto, in maniera molto facile. Esplicita e implicita, ma anche attiva passiva rispetto a Google, attiva passiva, cioè se uso un servizio di Google è ovvio che da qualche parte gli sto dicendo che io sono lì. Se io entro sul sito di qualcuno, qualcuno può mettermi, chiunque può mettermi il contatore di accessi e sapere che io sono passato di lì. E lo stesso fa Google in maniera molto più sofisticata rispetto a un sito normale. Ma esiste anche una profilazione passiva, cioè io non entro mai su un sito, non faccio mai ricerca attraverso Google, non ho una casella Gmail, non uso nessuno dei servizi di Google, eppure Google sa qualcosa di me. Come fa? Semplicemente io prima o poi verrò a contatto con qualcuno che usa Google. Per esempio, esiste un servizio che si chiama Google Analytics che serve per fare statistiche sui siti web. Okay? Se io passo su un sito che utilizza Google Analytics per fare le sue statistiche di accesso, io comunico tutti quei dati che abbiamo detto prima, sono dei dati impliciti, ok? Li comunico in maniera passiva, perché non passo da Google, ma il sito terzo da cui passo passa i miei dati, ok? Dobbiamo immaginare che adesso questa cosa qua non sarebbe preoccupante se Google fossero due amici come erano all'inizio, ok? Google nel 2006 ha fatturato 6 miliardi e mezzo di dollari di pubblicità. È una società che è quotata in borsa e vale adesso molto meno di prima perché ci sono stati dei problemi, hanno avuto dei problemi come tutti gli altri, però vale circa metà della General Motors come capitalizzazione di borsa, cioè è veramente un gigante. Quindi diciamo che in particolare con i servizi di profilazione passiva su internet possiamo dire che un'azione su due delle azioni che fate su internet è comunque tracciata da Google. Ok? Per dare una azione significa andare a vedere un sito, scaricare la posta, mandare una mail, qualsiasi cosa che fate online. Perché se voi mandate una mail a uno che ha un account Gmail, voi non avete Gmail, ma Google sa che l'utente X che c'è alla casella Calde Italia è passato di lì. Ok? Quindi, riepilogando, tipi di profilazione, attiva, passiva, ricerca perché ci sono i cookie. I cookie sono quei piccoli file di testo che servono per automatizzare le procedure di login, per esempio. Tu passi... Ciao! Tu passi su un sito, hai messo dentro una volta la tua email, il tuo nome e cognome, e quel sito ti riconosce, ok? Hai salvato i dati, si carica più velocemente. Passiva, pubblicità presente sui siti visitati. Attiva, l'uso dei servizi come mail e mappe. Passiva, API, quando voi sviluppate per esempio, cioè avete il vostro sito, volete metterci le mappe di Google sul vostro sito, dovete utilizzare le API o API, non so bene come si dice, che sono quelle librerie che servono per integrare dei servizi di Google nel vostro sito. Okay? Oppure voi volete guadagnare dal vostro sito, mettete la pubblicità che vi dice Google di mettere, quindi lui fa da mediatore verso gli inserzionisti pubblicitari, e qui c'è una profilazione passiva, perché voi per accedere a quegli strumenti, per scaricarvi le mappe di Google e mettere sul vostro sito, dovete comunicare una serie di parametri. Okay. La personalizzazione, come iGoogle, non so se qualcuno usa iGoogle, è quando voi avete la pagina iniziale, invece di essere Google normale, dite però qui voglio i feed RSS, però qui voglio lo sfondo di un altro colore, che sembra una cazzata, però voi pensate che uno spende mezz'ora, un'ora, tre ore per personalizzarsi la sua pagina d'accesso a internet, quello dice moltissimo di quella persona. Cioè, è una cosa... se teniamo presente che il tempo medio di attenzione su una pagina internet è circa 10-15 secondi su una pagina, e stiamo... avanti, e sto esagerando, 10-15 secondi, avere degli utenti che ci mettono, che spendono ore del loro tempo a personalizzarsi una pagina, dice moltissimo. Analytics invece è passivo, perché fa delle statistiche, noi non ne siamo consapevoli. Gmail è sia attivo sia passivo, perché Gmail è il classico sistema che usa Google per fare una mappatura che si chiama mappatura relazionale. Se voi notate, la maggior parte dei servizi che offre Google, quelli diciamo tra virgolette sofisticati come Gmail, che non sono ricerca pura, funzionano a invito. Cioè, una casella di posta Gmail tu ce l'hai se qualcuno che c'ha Gmail ti invita. Questo che cosa significa poi per loro? Significa che hanno una mappa, non esaustiva ma significativa, delle tue relazioni. Ok? Cioè, io invito i miei amici o delle persone con cui voglio stare in contatto. Insomma, è come se avesse la tua rubrica telefonica, sostanzialmente. Non è telefonica, sono i tuoi contatti, poi magari ci chatti pure, eccetera, eccetera. Non è più così. Non è più così. Sì, non è più così perché... Sinceramente non lo so perché. È stato così per i primi... Di solito funziona che... quando è beta, quando un servizio cosiddetto beta, lo fanno a invito. E serve, a quelli che fanno marketing all'interno serve per capire se funziona o non funziona. Poi dopo, tipicamente, non è più così. Però i servizi invece che sono ancora in fase di sviluppo, per esempio Google Docs, adesso non so se in questo momento è ancora così, ma fino a un mese fa era ad invito. Cioè, Google Docs è quella cosa per cui tu non hai più bisogno di avere Word, Excel sul tuo computer, perché fai tutto online. Cioè, apri i tuoi documenti, stanno online, tu c'hai il tuo foglio di calcolo, il tuo word processor e fai tutto online. Che è una figata, per quanto mi riguarda è una figata. Il problema è che i dati ce li hanno loro, fondamentalmente. Quindi, cioè, è bellissimo, però... diciamo che c'è da rifletterci un attimo. Cookie vuol dire biscotto, sono i biscotti che lasciano il segno. Biscotti che lasciano il segno perché, abbiamo detto, sono quelle cose che servono per automatizzare tutte le cose, tutte le procedure online, per permettere a chi sta dall'altra parte di riconoscerti in un qualche modo. Questa è una cosa curiosa in realtà, curiosa perché dice quanto loro ci abbiano studiato, senza entrare troppo nel tecnico, però è molto difficile fare dei cookie, cioè dei meccanismi che quando tu entri su un sito si ricordano bene di chi sei, ok? E se ne ricordano talmente bene che possono dire che browser avevi la volta scorsa, che browser hai questa volta. Se ti colleghi da un computer diverso, ma vai nella stessa casella Gmail, c'è un sistema che permette di associare queste due persone che entrano da due computer diversi alla stessa, cioè sono delle cose abbastanza complesse. Loro sono riusciti a fare un sistema talmente fatto bene dal punto di vista tecnico che scade nel 2038, che non è una data a caso, è la data massima che si può impostare per i cookie, per tutta una serie di ragioni tecniche che, per farla breve, sono legate a come sono state stabilite le date sui server di internet. I server di internet, e lì sarà un problema vero, se ci arriveremo, ma diciamo che nel 2038 internet scomparirà, se stiamo alle date che sono impostate attualmente. Ok, i sistemi, questa è una digressione che in realtà è una cazzata, non so se avete detto, però per me è divertente. Mentre il millennium bug era evidentemente una cazzata, ok, nessuno ci ha mai, cioè, proprio una cosa montata. Invece il 2038 è una data significativa perché tutti i sistemi di internet sono Unix fondamentalmente, Linux, i server grossi, ok? Chi ha inventato le date sui server Unix nel 1970 non pensava che sarebbe durato così a lungo quel sistema operativo e ci ha messo dentro un sistema di date che teneva che era un numero molto grande ma espresso in secondi. Ora, questo numero molto grande espresso in secondi, in anni, diventa un numero piuttosto piccolo, che arriva fino al 2038, perciò i server di internet nel 2038 ritorneranno nel 1970. Quindi lì sì che sarà un problema, poi lo risolveranno sicuramente, non è... però è per dire che Google è capace, ha della gente così brava tecnicamente, che più in là di così nella profilazione non possono andare, ok? Sono proprio il sistema stesso gli impedisce di andare più in là di così. Diciamo, apparentemente non ha alcuna utilità se non quella di profilare. Diciamo apparentemente, perché l'utilità non è solo quella di profilare, ma anche quella di vendere dati a terzi. Questo è il concetto. Servizi di dati per ottenere qualsiasi informazione di te. Va bene, l'abbiamo già detto, però per entrare nel dettaglio, se qualcuno usa queste cose, Google Maps dà la tua posizione geografica. Adesso è uscito lo Street, che è fantastico, potete vedere, non so se funziona, se c'è anche qui, a Milano c'è da non molto, e potete vedere effettivamente le vie di casa vostra, cioè se uno esce di casa, molto, molto carino. Office, beh, è questa cosa qua che dicevamo di avere i propri documenti, tutti i documenti del proprio computer online. Picasa, metadati relativi alle foto. Picasa è un servizio che serve per caricare delle foto, okay? Il vostro album di foto lo buttate su internet, sullo spazio Google. È molto interessante, avendo delle grosse mole di fotografie, sapere come vengono taggate le foto, ok? Quindi i metadati sarebbero i tag fondamentalmente, e sono delle informazioni interessanti. Fino a fine a desktop, che è veramente il massimo, nel senso che desktop è quell'applicazione che ti permette, te la scarichi, ti indicizza il tuo computer e tu puoi cercare nel tuo computer come se fosse internet, cioè con la stessa interfaccia, che, voglio dire, bellissimo, però gli stai veramente dicendo tutto. Più di così non puoi, si può fare sempre di più, però. Gmail, va bene, abbiamo detto, rete sociale, contenuti, lingua, i link, tutte le cose. Avere una mail su Google significa profilare te stesso e tutti quelli che ti circondano, fondamentalmente. Gmail, privacy e macchine. Questa cosa qua l'abbiamo scritta perché ci hanno invitato a una trasmissione radiofonica. In Italia c'è questa conduttrice diceva: ma io mi sono preoccupata perché ho mandato una mail a un'amica e due giorni dopo, o tre giorni dopo, mi è arrivata una pubblicità contestuale su Gmail, quelle piccoline che non danno fastidio per niente. Io avevo mandato una mail dicendo: ma mi piacerebbe andare a Rimini alla convention di non so più che cosa o qualcosa del genere, però gli alberghi sono un po' cari in questa stagione. È arrivata nella mail, c'era scritto, ok? E arriva la pubblicità tre giorni dopo, due giorni dopo, con scritto alberghi basso costo Rimini. Fantastica, no? Come hanno fatto? Ok, perché non è che possiamo pensare che c'è qualcuno dietro che legge le mail e dice: ah, questa signora, qualcuno che sta a Mountain View, California, dice: ah, questa signora vuole andare a Rimini, ma ha pochi soldi, ma facciamo andare, no? E vende lo spazio pubblicità, assurdo. Ci sono delle macchine, e c'è scritto a quell'indirizzo lì, che cosa fa? Abbiamo tirato fuori un estratto tradotto, dice: Google scansiona il testo, si intende il testo delle mail, a scopo pubblicitario. Questa operazione è completamente automatizzata e non richiede l'ausilio umano. Quindi cosa vuol dire? Che tutte le mail che passano da Gmail sono scansionate da una macchina che estrae le parole chiave, si occupa di fare un match su due database. Abbiamo un database con le email e parole chiave che vengono tirate fuori. Le mettiamo qui in mezzo, abbiamo database degli inserzionisti che dicono pubblicità, divatte la pesca, tutte le pubblicità, tiriamo fuori l'elenco di parole chiave, facciamo un match, ok, manda via pubblicità. Dietro c'è un sistema di pagamenti, in cui pagamenti incrociati, in cui io ti ho mandato una pubblicità a questa signora che senz'altro verrà da te, quindi i 10 euro che mi hai dato per fare pubblicità quelle mille volte adesso sono esauriti, mi devi dare gli altri soldi. Ok, questa è la ragione per cui ci siamo preoccupati di spiegare come funziona questa roba qua. Google Analytics, che abbiamo detto prima come funziona, fornisce a Google le navigazioni degli utenti sul sito ospitante, quindi se voi usate Google Analytics per fare le statistiche di accesso al vostro sito, sappiate che raccontate a Google tutte le cose che fanno i vostri utenti. A cosa serve tutta sta menata della profilazione? Abbiamo detto per fare pubblicità. Quindi fondamentalmente noi abbiamo una società che è una delle più grandi società, cioè che ha un bilancio spropositato, e questa società non produce niente, chiaro, no? Quello che fa, quello con cui guadagna, è mettere in contatto milioni di inserzionisti con milioni di consumatori potenziali, che è quello che nel gergo del marketing attuale viene chiamato coda lunga. Non so se ne avete sentito parlare della faccenda della coda lunga. Vabbè, magari ci ritorniamo dopo, perché analizza gli utenti, va bene. API, vabbè, passiamo via. Per non parlare di i siti di proprietà di Google, che non sono Google, ma Google se li ha comprati, ok? YouTube è di Google, usa la stessa piattaforma di Google, ok? Blogspot, la piattaforma per blog più diffusa al mondo, ci sono milioni e milioni, e così via, perché le acquisizioni di Google sono una dietro l'altra. Riassumendo, utente impronte e via di fuga. Allora, questa è, abbiamo cercato di riassumere, non si vede un cazzo, apro un po', non si vede, la faccio vedere male. Vabbè, ve lo leggo io. L'impronta dell'utente, l'utente fantastico per Google è quello che ha un account Gmail, ricerca sempre su Google e quindi gli passa tutti i cookie, guarda, condivide video su YouTube, scrive e legge su una piattaforma blog di Blogspot, usa i servizi Google come Office, News, eccetera, visita siti che usano Google API, cioè appunto quelli che hanno le mappe integrate di Google e così via, visita siti che usano Google Analytics per le statistiche e o AdSense, che sarebbero i banner contestuali, quando dici guarda, con questa cosa qua io ospito inserzionisti di Google e quindi ci guadagno, no? Guadagno qualcosa dall'uso del mio sito. Personalizza la sua pagina di Google con iGoogle. Se voi fate tutte o una parte considerevole di queste cose qua, avete proprio una, cioè non è un'impronta così, è un'impronta bella nitida, si capisce che sei. Che non vuol dire che uno sa chi sei tu, uno sa chi sei tu nel momento in cui usi il tuo computer, chiaro, no? Cioè non è che niente di diverso. Questo vuol dire una cosa sola per noi, che Google non è gratis. Cioè, la forza di tutti questi servizi qual è? Che sono gratuiti, ok? Secondo noi questo percorso sulla profilazione mostra almeno una cosa, cioè che non è vero che è gratis. Cioè, è gratis dal punto di vista che non spendete niente. Non è gratis nel senso che la moneta siamo noi, cioè le nostre informazioni personali, i nostri gusti, le nostre idiosincrasie, non so come chiamarle, quello che ci piace e quello che piace ai nostri amici, fondamentalmente, perché c'è questo sistema di mappatura del relazionale. Quello che vale per Google vale anche per tutti gli altri, cioè Flickr, MySpace, Facebook e tutti gli altri che ci volete mettere, quello che si chiama Web 2.0, che vuol dire fondamentalmente, siamo un po' radicali su questo, vuol dire ho una società, non produco un cazzo, faccio produrre tutto agli utenti e gli do la possibilità di chiacchierare sui miei spazi. Ok? Tutto quello che passa da me, io lo so e ci penso io a gestirmela. Questo è tagliato ovviamente con l'accetta, quello che abbiamo capito noi del Web 2.0, del cosiddetto social network. Adesso, questo non era per mettere ansia, non ci interessa pensare che la crittografia ci salverà o nasconderci o buttare il computer o qualcosa del genere di ultralobbista ci salverà in qualche modo. Ci va bene starci dentro, cioè ci piacciono i computer, ci piace la tecnologia, però la tecnologia sapendo che cosa stai facendo, no? Se tu hai un'automobile sarebbe meglio che tu sapessi guidare, poi no, sarebbe ancora meglio se tu avessi una bicicletta e sapessi smontartela, rimontartela per conto tuo, a livello proprio così di desiderio di autonomia, no? Come uscire da tutta questa faccenda della profilazione? Non è che ci sia una ricetta, ognuno naturalmente fa non solo quello che gli pare ma anche quello che può, perché non è che... no? Però diciamo che uno stile critico e sobrio, dove sobrio vuol dire non è che tutto quello che luccica è oro, no? Non è che abbiamo imparato che quando ci dicono è una cosa gratis su internet, cioè magari ci pensiamo due volte. E adesso è il caso forse di pensarci tre volte, perché sono veramente... ci sarà un motivo perché è tutto gratis, no? Non è per essere sempre diffidenti, è perché veramente c'è un motivo. Il motivo è che buttata lì, quando ci chiedono, succede spesso, ma vabbè, ma tutte queste minchiate sulla profilazione, la pubblicità, contro la pubblicità, ma allora come facciamo ad andare avanti? Non lo so io come facciamo ad andare avanti. Una cosa è sicura, che queste grandi società che guadagnano sulla pubblicità sono un segnale abbastanza evidente che veramente non c'è più niente da produrre, cioè da mo' che non c'è più niente da produrre, ma in questo momento, soprattutto su ciò che riguarda le nuove tecnologie, c'è da imparare a usare le cose, non da comprare, vendere, vendere, comprare e fare finta che è tutto gratis. Usare strumenti di autodifesa, che crittografia, un minimo di server autogestiti, ce ne sono in giro, autistici, molti altri che funzionano più o meno bene. È chiaro che quando la bicicletta te la fai tu, delle volte fuori, no? Se non hai sempre un meccanico da cui andare, un meccanico di fiducia, può capitare che fuori ed è un problema, però uno può anche scegliere di usare gli strumenti in un altro modo, magari non l'ultimo grido, però è una cosa che gli serve. E sicuramente giocare e immaginare nuove soluzioni, cioè se una cosa mi serve la uso, ma a cosa mi serve la cosa che sto usando? Perché poi c'è anche il contrario, cioè magari a un certo punto uno scopre che passa ore online a chattare, lavorare, no? Cioè più tenere in piedi relazioni con persone che non ha mai visto, o forse non gli va per niente di vedere, ma online sono molto carine, cioè nuove cose che si possono fare col computer, perché comunque con la tecnologia in genere. Per quello che riguarda specificamente la profilazione di Google e di internet in generale, del web in generale, abbiamo individuato degli strumenti che possono essere utili, semplici da usare e che fanno delle cose simpatiche. Il primo è TrackMeNot. Cosa fa? È un'estensione per Firefox. Avete presente Firefox browser? Ok. TrackMeNot fa delle ricerche, voi siete sul web e fate i cazzi vostri. TrackMeNot invia delle ricerche casuali a tutti i motori di ricerca, ok? A un po' di motori di ricerca. Quindi, se tu cerchi, tu te ne disinteressi, vedi questa barra che c'è sotto che dice, che chiede delle cose in inglese, strane, in altre lingue, no? E ha anche una pagina di ricerche, cioè di testi, puro testo, che tu puoi sostituire e inviare, non so, prendi un pezzo della Divina Commedia, ce l'appiccichi dentro e lui fa richieste casuali. A cosa serve? Serve perché siccome la profilazione è fatta dalle macchine, e le macchine sono stupide, se tu fai delle ricerche casuali, il tuo profilo sarà casuale. Cioè è come se, fatte le debite proporzioni, tu usassi, sempre nel famoso supermercato, una volta la tessera di tua nonna, una volta la tessera di un cinese, una volta, cioè, fai delle richieste completamente assurde. Questo è l'indirizzo per scaricarlo. Scroogle è un proxy fondamentalmente, cioè un filtro, che filtra le ricerche che voi fate verso Google e evita che queste ricerche vengano profilate. Naturalmente l'obiezione è: ma il signor Scroogle non farà lo stesso? Certo, potrebbe farlo, però diciamo che è uno simpatico, si chiama Daniel Brandt, lo conosciamo un po', probabilmente no, non gli interessa, gli interessa più fare altre cose. Comunque ve lo potete mettere, c'è anche il plugin contestuale che serve per fare le ricerche automaticamente, ve lo potete scaricare e usare per fare le ricerche, e le ricerche che fa sono esattamente le stesse di Google. Okay. Cookies è la nostra risposta, tra virgolette, nel senso che siccome ci siamo posti il problema, ci hanno posto il problema, magari in situazioni molto più, della gente molto più accanita, tecnofila di quanto penso siate voi, che ci dice sì vabbè ok, ce l'hai con Google e allora cosa facciamo? Allora non lo usiamo più, io continuo a usarlo, punto e basta. Questa è una risposta un po' così, che serve, che cosa fa? Cookies è uno share cookies, scambiare cookies, che vuol dire che voi prima di andare a fare la spesa su Google, cioè prima di fare una ricerca su Google, mettete in un calderone le vostre carte per fare la raccolta punti, ne prendete una a caso di un altro, e lui sostanzialmente si occupa di inviare dei cookies casuali, per cui invece di essere tu che fai la ricerca sono io e invia il mio cookie, e quindi lui non sa più chi è che lo sta facendo. Naturalmente più utenti, migliori performance, perché più siamo, più diventa un casino. E si scarica da qui. Quindi una difesa quasi completa. Il nostro simpatico utente che va su Google, usa TrackMeNot, che fa delle ricerche casuali. Cookies che mescola con le ricerche degli altri. Scroogle che fa un filtro e si mette in mezzo. Questo è un'altra possibilità, un po' più sofisticata, un po' meno intuitiva, che è Privoxy, che per farla breve è una rete sicura che si occupa di mescolare tutte le vostre ricerche, di buttarle in maniera casuale. Boh, abbiamo finito questa cosa qui della profilazione. Naturalmente caricatevi il libro, se vi interessa. Nel libro non si parla di questo in maniera... si parla anche di questo, si parla anche di cose più... meno noiose forse. Comunque, domande? Cosa... sì. Io... cioè, ascoltandoti, ho l'impressione che forse personalmente, cioè ascoltandoti, si ha l'impressione di un'interazione, cioè come se Google ti osservi te come un individuo, no? Nel senso, anche adesso perché alla fine hai parlato di sistemi di difesa, cioè sarebbe un sistema per rovinare un po' la purezza della loro raccolta di dati, non è un sistema per difenderti la tua privacy in realtà. Cioè io sono molto interessato alla gestione di questi database che si formano con queste raccolte di dati, e non so fino a che punto cioè sia veramente un uso tipo la pubblicità, io voglio andare a Rimini ma non ho troppi soldi, ti mangio l'albergo completo. Stasera, poco mezz'ora prima che tu iniziassi al telegiornale svizzero, presentavano in Pompa Magna un nuovo servizio di Google come una super trovata. Non so se qualcuno l'ha visto. Sì. Che servizio è? Che appunto statisticamente puoi vedere come si sviluppano le epidemie di influenza in tutto il mondo, in ogni stato. Ah, Google, sì, quello non l'abbiamo messo perché... cioè, questo risalendo prevalentemente semplicemente dalla ricerca di cose tipo termometro, febbre, dottore e cose simili. Ah no, io pensavo healthcare. No, mettere le tue... facendo una... estrapolando dalle ricerche alcuni termini tipo febbre, non so, influenza, queste minchie, creano una proiezione su tutto il mondo, penso, poi a parte degli Stati Uniti però, dove ti dicono dove c'è più influenza, dove meno, dove c'è più probabilità, e tutte queste parole qua. Questa cosa l'hanno ufficializzata così perché dicono che è sempre stata fatta la statistica su casi di influenza dai dottori e dai farmacisti, e hanno scoperto subito praticamente che Google ha esattamente gli anticipo, perché la gente deve andare dal dottore e il dottore deve fare la raccolta di dati. Cioè, io la vedo molto più, appunto, cioè come una profilazione delle persone, sia in gruppi, come dicevi tu, che può essere giovani, meno giovani, intenti di un certo tipo, ma anche una profilazione più psicologica, se vuoi, sugli usi, sulle paure, su cose molto più serie. E appunto è per quello che quando tu dicevi del fatto che è così importante di quante informazioni puoi togliere da uno che in tre ore si personalizza, cioè cazzo, questo è fondamentale, non solo a livello di individuo, perché appunto a livello di rapporto uno a uno che può avere chi controlla la rete con l'individuo è alquanto aleatoria la cosa, però su un gruppo è quasi infallibile, cioè è un margine statistico d'errore, ma sai che un certo gruppo a un certo stimolo si comporta in un certo modo. Sì, noi ora, hai perfettamente ragione ovviamente sul fatto che la statistica è interessata più alle masse, nel senso di ai gruppi omogenei, alle profilazioni, alle segmentazioni della popolazione in gruppi omogenei. Quello che abbiamo cercato di tirar fuori, quando parliamo di autodifesa, la questione è ovviamente metaforico, però anche no, nel senso che è vero che ci sono delle cose che succederanno comunque, che noi vogliamo o che non vogliamo, okay? Però è anche vero che finché lasciamo alle corporation piuttosto che ai governi la possibilità di parlare delle popolazioni come masse, come dati statistici, diciamo la nostra possibilità di influenza è sempre, almeno per me, per noi, è sempre minore. L'unica via d'uscita che vediamo è la responsabilità individuale, cioè il desiderio individuale di cambiare una cosa. Poi da lì, chiaro che si può fare qualcosa di più, senz'altro non solo si può, ma si dovrebbe fare qualcosa di molto di più che mettere un'estensione di Google Firefox, non frega un cazzo. Però come idea di non è che la massa è qualcun altro, cioè la massa sono io. Chiaro che da fuori noi possiamo permetterci di dire, beh, la massa, questa percentuale di persone, tendenzialmente uno a 40 anni succede questo e quest'altro. Sì, però poi concretamente io penso, le persone si danno una mossa uno per uno a dire, vabbè, che cosa voglio farne io, come reagisco io a questa cosa. Era in questo senso autodifesa. È chiaro che perché il discorso dall'altra parte è, l'ho sentito sempre in televisione ieri pomeriggio, a una domanda pertinente a Berlusconi ha risposto: io mica stavo parlando a te, parlo al 70% che non si preoccupa di questo. Certo. Cioè, capisci? Nel senso, io sono d'accordo con quello che dici, però appunto la cosa secondo me più losca, tra virgolette, è che la gestione di questo tipo di informazioni raccolte, cioè guarda Facebook, è un'autoschedatura, cazzo. Facebook infatti, cioè, è un'autoschedatura volontaria, te. Facebook, abbiamo tu un capitolo che nel si senso altre... però come vengono gestiti, chi in realtà gestisce questa cosa? Quella è la cosa più, secondo me, più delicata. Diciamo che all'inizio in America ce l'avevano in mano solo i militari, i programmi. Quando è partita tutta la storia di filtrare le telefonate, le mail, tutto era gestito. Poi c'è stata una cosa... Sì, non era gestito solamente. I militari si sono staccati, hanno fatto un'azienda privata, adesso ufficialmente sono privati, per esempio. Sì. Però sono tutte cose che non si capisce. Io, perlomeno, io non capisco se si vengono gestiti a fini puramente economici o non lo so. Vabbè... La risposta è no, non vengono gestiti solo a fini economici. Google è la dimostrazione, perché quando il governo cinese dice a Google dovete filtrare questi risultati perché noi non vogliamo che queste pagine compaiano, loro dicono ok, scusate, e lo fanno. Per cui sicuramente non è solo a fini pubblicitari. Però, queste slide sono state fatte per l'università e per una ragione specifica, quindi erano molto mirate. Sicuramente quello che preoccupa più me, quello che preoccupa più noi è la questione del controllo da parte delle corporazioni che sono in combutta con i governi, fondamentalmente, per permetterla in breve. Però è anche vero che uno, dico sempre dal punto di vista personale, io sentirmi che dall'altra parte c'è la CIA, cioè, nel senso, cosa facciamo? Vabbè, cioè, prendetemi, portatemi via, no? Cioè, mi sembra difficile proporre qualcosa quando dall'altra parte, quando si comincia, perché poi sembra sempre che c'è il complotto, no? Chi fa queste, chi è che ha fatto la schedatura, cazzo? Chi è che ci vuole prendere? In realtà, in questo momento io non vedo una cosa, per noi che viviamo in Occidente, in una situazione privilegiata, cioè un conto se fossimo in Cina, un conto se fossimo in una zona particolare, altrove diciamo, non qui. Sono assolutamente d'accordo che il problema grosso è quello. Però io dico, qui noi non possiamo, io non vorrei indulgere nella paranoia del complotto, perché la paranoia del complotto porta a cominciare a fare delle riunioni segrete, porta a cominciare a dire vabbè ci stanno controllando, quindi che cosa facciamo noi, e porta alla cosa ancora peggiore, secondo me, che è quella di credersi più furbi dei furbi. Cioè, sei del tipo, oh, sappiamo che qui ci sono i vostri microfoni, quindi vai che ci facciamo passare le informazioni che vogliamo noi. Questa cosa è fallimentare sempre per me. Cioè, pensare che si possono battere, se esiste un loro, e non ne sono convinto, che si possano battere con le loro stesse armi, che sono le armi del controspionaggio, controcontrollo, la risposta di Skookis, quelle cose di autodifesa, è più una risposta creativa, nel senso di dire quello che vogliamo noi è aumentare il livello di caos, cioè aumentare il livello di differenza. Cioè, voi volete fare le profilazioni omogenee, voi volete i gruppi omogenei, voi volete capire chi siamo. Noi cerchiamo di dirvi il meno possibile, ma siccome è sempre più difficile dirvi il meno possibile, vi diamo più dati, più informazioni, più cazzate. Questa è la risposta. Infatti questo era il problema principale all'inizio, non so se ti ricordi quando si filtrava, appunto, se partiti dall'idea di filtrare che tecnicamente era possibile, che ne so, da delle parole all'inizio, filtrare tutte le email che avessero, cioè cosa succedeva? Che raccoglievano una massa di dati della quale non riuscivano più a distruggersi, perché era una massa enorme. Ma in realtà questa cosa qua, qui immagino che alludi, che è Echelon. Echelon funziona ancora adesso, sì. Cioè non è che non funzioni. Sì, sì, però dico Eleutera, che è la casa editrice con cui lavoro, noi come Eleutera abbiamo fatto un libro un po' di anni fa, che è la traduzione dell'originale inglese, che è di un giornalista britannico che racconta, per conto dell'Unione Europea, ha fatto un dossier, ha scritto questo saggio, che racconta che cos'è Echelon, che è un sistema di spionaggio globale che è nato militare, come Internet. Sono cose che nascono. La mia impressione è che ci siano queste cose, questi organismi di controllo che nascono come cose militari, e poi a un certo punto vuoi che sono caduti i blocchi e quindi chi se ne frega di cosa fanno i russi, vediamo di vincere l'appalto per l'oleodotto in Iran, cioè che ne so, vuoi che comunque la mole di dati è cresciuta a un punto tale che non se ne capisce più un cazzo. Da una parte si chiede alle persone di autoschedarsi, che è quello che succede con Facebook, ma anche con Google fondamentalmente. Dall'altra, intanto che ci siamo, che abbiamo sta massa di dati, in attesa che scoppi qualche cosa, ma che poi voglio dire, guerriglia bassa intensità, non di morti, bassa intensità perché non si usano le bombe vere, ma comunque le guerre ci sono tuttora, e la guerriglia informativa è una delle cose fondamentali per vincere una guerra in questo momento, se non la cosa fondamentale. A meno che non c'hai kamikaze, voglio dire, però se non hai kamikaze, c'hai gli armamenti tra virgolette convenzionali, si fa la guerra con le informazioni, cioè lo spionaggio e il controspionaggio. Però voglio dire, queste sono cose che stanno dalla loro parte. Io non voglio ragionare da questa parte, perché ragionare da questa parte mi porta a dire che queste cose qua sono il male, perché voglio dire, usare un computer, se proprio vogliamo vederla, è di fatto è un atto che aiuta comunque un sistema economico che è fondato sullo sfruttamento delle risorse dell'Africa, perché i componenti essenziali dei microprocessori sono fatti depredando le ricchezze dell'Africa e fondamentalmente del Congo, cioè quello che sta succedendo nel Kivu non è un caso che succeda lì, lì ci sono le risorse principali di coltan e gli altri minerali pregiati che servono per fare i cellulari, i microprocessori, così, per cui tu sai che i computer sono fatti con quella roba lì. Però è anche vero che io ho scelto di star qui, io non ho scelto di andare a fare né l'eremita né il combattente per la libertà, che poi dopo non si sa bene come va a finire, per quanto mi riguarda, è solo questo. È una, cioè, mi piacerebbe che, ok, si prende consapevolezza dei problemi, però poi né si dimentica che comunque ci siamo dentro fino al collo, perché questo è, né però dall'altra parte dice vabbè, comunque vinceranno sempre loro, quindi vabbè, andiamo avanti, no? Perché poi se uno è solo questo, è una, dire ok, cioè prendiamola non con filosofia, ma come un, c'è sempre possibilità di lavorare nell'interstizio, c'è sempre possibilità di fare in modo che l'interstizio diventi molto più grande di un interstizio, diventi una cosa autonoma, autogestita, fatta in un modo, poi, cioè siamo qui, voglio dire, per dire, non è una cosa da poco per me, anzi essere qui è una struttura tecnologica d'avanguardia, ma non lo dico per dire, lo dico, non sto pensando al proiettore in realtà, cioè sto pensando a, perché tecnologia per noi non vuol dire solo giocare con il computer, in realtà tecnologia è veramente riappropriarsi delle cose di cui non siamo più padroni e gestori ultimi, che sono le cose quotidiane tutti i giorni che hanno a che fare con la tecnologia, muoversi, l'energia, la gestione dell'energia, sono tutte cose da qui l'approccio hacker, cioè metterci sopra le mani e capire come è fatto e usarlo per soddisfare i tuoi desideri, i tuoi bisogni, cioè questo è quello che vorremmo fare noi. Solo è quello il lato rivoluzionario, se vuoi, perché se guardi quello che dicevi prima della bicicletta, il computer è proprio un esempio opposto, no? Il computer da quando è nato ha preso una strada per far sì sempre più che l'utente non debba fare un cazzo, attacca la presa e già gli si accende la cosa che ha bisogno. Lo so. Apposta per non capire che cazzo c'è dietro. Però io non penso che ci sia dietro un progetto, questo che voglio dire. Cioè, una tecnologia viene adottata, quando si adotta la tecnologia, quando si fa un'innovazione tecnologica, da lì non si può più tornare indietro. Cioè, una volta che è stato inventato il fuoco, non si può più disinventare. E una volta che è stato inventato un computer, fatte le debite proporzioni, è difficile disinventarlo, ok? Quindi questo vuol dire che io, con un'attitudine il più possibile attiva, quello che posso e voglio fare è usare gli strumenti che ho a disposizione in maniera che siano il più possibile autonomi, cioè avere una consapevolezza che, come voglio dire, non si spara alle mosche, ma si usano degli altri sistemi, per ogni bisogno, per ogni desiderio c'è una tecnologia appropriata. Con tecnologia intendo il martello, no? Se devi picchiare un chiodo in un muro non usi il pugno, usi il martello, non usi il maglio atomico, usi sempre il martello, perché non avrebbe senso. Quello che sta succedendo effettivamente con l'informatica, ma da tempo, è questo, perché quando ti dicono di cambiare il computer perché se non hai 4 giga di RAM non gira Windows Vista, svista, è una svista, ma non è una svista in realtà, è proprio così, cioè è fatto apposta per incrementare la dinamica dei consumi infiniti, che è una cosa, che è quello, noi nel libro diciamo questa cosa, Google l'abbiamo preso, dicevo prima, come esempio paradigmatico, perché loro, la loro filosofia, poi c'è una cosa abbastanza divertente sulla, i 10 comandamenti di Google, diciamo, è la filosofia dell'eccellenza di stampo accademico americano, liberal, ok? Che è questa cosa che da un punto di vista così dello smanettone tipico è fantastica, perché dice: noi vogliamo essere migliori in tutto, ce la faremo, siamo troppo fiti, comunque, cioè, tu lavori a Google, cioè, non è come lavorare nelle aziende dell'informatica qui, c'hai, c'hai l'assistenza sanitaria gratuita negli Stati Uniti, c'hai il posto perché i bambini giochino, c'hai, c'hai delle cose, un ambiente di lavoro informale, pacche sulle spalle. È chiaro che questo è il capitalismo dell'abbondanza. Hai la permanenza di tutte le ore di lavoro, però hai 8 ore al giorno che per pensare ai cazzi suoi. Cazzi più creativo. Certo, ma poi questo significa attirare i cervelli migliori, no? Attiri i cervelli migliori. Cioè, dall'altra parte Google cresce continuamente come numero di macchine. Sono arrivati al punto che non sanno neanche loro quanti computer c'hanno. Boh, comunque funziona. Tu guardi lo spazio su Gmail, se noti, c'è la cosa che dice che sta crescendo lo spazio. Cioè, quello cresce in continuazione, il numero di, la pubblicità cresce in continuazione, il numero di servizi cresce. Cioè, questo è veramente la, l'immagine di quella, della metafora che si usa per il mercato. Il mercato capitalista vuole che se oggi guadagni quello che guadagnavi ieri, la tua società fondamentalmente è in perdita. E loro è esattamente questo, che cioè, lo dicono come, proprio come prassi, se noi non riusciamo a crescere di più, ma non solo a, a non rimanere uguali a ieri, ma a crescere di più oggi di quanto crescessimo ieri, non va bene. È questa cosa qua che vogliamo invertire, cioè che sarebbe divertente trovare, poi bisogna escogitarli i modi, io non è che ho delle risposte. Oh. Che fanno? Non so. Comunque il giorno si ferma da sola perché la Terra è un sistema chiuso. Sì. Non si ferma. Collassa, la Terra è un sistema chiuso, non può espandersi all'infinito, una cosa di qualsiasi cosa. Cosa. Cioè, io sono d'accordissimo con quello che dici tu. Mi modello, piacerebbe crederci. Ma vedrai. Cioè, un giorno finiranno. Sì, ma io vivo adesso, mica quando finirà. Cioè, il problema non è quando. Magari hai ragione. Ma non ci deve. Cioè, appunto, adesso non per anch'io vivo adesso, però se la ragiono così mi dico, allora adesso mi metto la cintura d'esplosivo e parto. Ma è, per, è appunto per evitare quello che io adesso voglio immaginarmi delle cose. Sapendo già che comunque questo andazzo qua non è che mi cambierà domani. Lo so, però preferisco mettere l'accento sulle cose che possiamo fare oggi piuttosto che. Sì. Cioè. No, ma io non era per contestare, era per relativizzarle forse, nel senso che mi sembrava che come l'avevi esposto veniva percepito un po' come dire i criptomenzi, no? Mi mandano a casa a me, o vengono a casa a cercarmi perché ho visto, ho cercato la tal cosa alla inizio. Una cosa è sicura, che se sei abbastanza interessante, il problema non è che ti vengono a cercare, il problema è che se sei abbastanza interessante per essere cercato, ti possono trovare, questo è il problema. Ovviamente uno può dire, vabbè, ma potevano trovarmi anche ieri, in effetti anche senza Google ti avrebbero trovato questi fantomatici loro, però è anche vero che così è molto più facile, cioè è semplicemente una questione di costi-benefici, se vuoi metterla, no? Quanto mi costa andare a beccare quello stronzo che fa la manifestazione tutti i giorni, no? Adesso mi costa molto di meno, è molto più facile, basta che chiedo a Google. E se mi chiamo governo o istituzione qualsiasi, io non credo che nella. Poi naturalmente loro fanno le loro dichiarazioni in cui la privacy degli utenti è la prima cosa. Però anche lì, come nella faccenda delle mail, no? Cioè è una macchina che se ne occupa. Da un certo punto di vista questa cosa qua, incredibilmente, almeno in tutte le, con tutte le persone con cui abbiamo parlato in questi 2 anni, da che abbiamo un anno e mezzo, ma poi in realtà questo libro è stato presentato 2 anni fa all'ECK Meeting a Parma, prima che uscisse, no, a Napoli, prima che uscisse. La cosa incredibile è che gli smanettoni, i tecnofili, sono contenti del fatto che ci siano le macchine e non le persone dietro, perché dicono, vabbè, ma le macchine fondamentalmente non è che hanno un'intenzione malvagia, lo fanno perché così funziona meglio, che da una parte è senz'altro vero, perché infatti la storia della pubblicità funziona benissimo. Dall'altra parte, per me, per noi, è molto più preoccupante, perché significa, a livello di percezione della tecnologia, un atteggiamento completamente passivo, primo, e secondo, un atteggiamento che presuppone che siccome le macchine non hanno un'intenzionalità, non possono mentire, hanno, cioè, tutte le cose che sappiamo, che riguardano, allora, siccome non sono esseri umani, agiranno nel nostro interesse, fondamentalmente. Perché, se guardate, proprio la filosofia che sta dietro a Google, che è quella che è esemplificata dall'idea del mi sento fortunato, non so se avete presente il bottone mi sento fortunato di Google, tu c'è la pagina, cioè metti la parola, dici cerca, però di fianco c'è il bottone, è feeling lucky. Mi sento fortunato, che vuol dire per loro? Non ti faccio vedere tutti i risultati, ti faccio vedere solo il primo, entri automaticamente nel primo, perché l'idea è, se il nostro sistema è sufficientemente sofisticato e ben fatto, e proprio abbiamo raggiunto il top dell'eccellenza, in un futuro radioso, tu, cliccando su un bottone, arriverai istantaneamente all'oggetto che cerchi, okay? Che è il sogno del capitalismo, fondamentalmente. Cioè, nel momento in cui tu esprimi un desiderio, il desiderio viene realizzato da un oggetto di consumo che ti viene posto lì, con un clic. Questa cosa sottintende il fatto che le macchine siano buone, fondamentalmente, dimenticando ovviamente che dietro le macchine ci sono i programmatori, e che i programmatori primo hanno degli interessi molto concreti, tipo portare a casa la pagnotta, e quando non vogliono portare a casa la pagnotta perché sono sufficientemente ricchi, hanno delle altre preoccupazioni, che sono per esempio occupare tutto lo spazio disponibile, come nel caso di Google, inteso come corporazione, no? Per cui non è un bel ragionamento. E poi c'è la faccenda della dittatura della maggioranza, perché il passaggio prima del mi sento fortunato è vediamo che cosa hanno deciso gli altri, cioè come funziona l'ordinamento dei risultati di Google. C'è l'algoritmo di PageRank, per cui tu cerchi, non so, cerchi una parola qualsiasi e l'ordinamento dei risultati che viene fuori è fatto dalle macchine. Come fanno le macchine a ordinare i risultati? Calcolano il numero di link alla risorsa che tu hai cercato. Ok, c'hai 1000 siti web, ok? Tiri fuori le parole chiave, tutta una serie di indicizzazioni anche molto sofisticate, però diciamo delle parole chiave, dei metadati, quelli che si chiamano i metadati, cioè i tag che tu puoi assegnare a quelle risorse, e valutano il numero di link che vanno da una pagina all'altra. Per cui mettiamo che in termini di pagina, se tu stai cercando la pagina del Molino di Lugano, ok? E cerchi Molino Lugano, viene ordinato il numero di link, le pagine che hanno il numero di link a quella risorsa maggiore. Il numero di link viene calcolato in maniera quantitativa. Questo vuol dire che più una risorsa è linkata, più comparirà in alto nei risultati. Questo vuol dire che se la maggioranza ha scelto quella risorsa, e soprattutto con l'esplosione dei blog, questa cosa, visto che il numero di link è fatto da persone più che da macchine o da webmaster, prima era fatto dai webmaster, adesso è fatto prevalentemente da persone che dicono ah, mi piace quella cosa e quindi faccio un link a quella risorsa. Questo vuol dire che se io sto cercando veramente una cosa che è diciamo una risorsa poco ricercata, che è una perla rara, che è una cosa che magari non esiste nemmeno, lo sto facendo semplicemente un percorso, questa cosa nella migliore delle ipotesi è in fondo ai risultati, nella peggiore non esiste nemmeno. E quindi cioè, anche il sistema con cui Google tende a presentarti la realtà della rete è un sistema che funziona a dittatura della maggioranza, cioè la maggioranza ha sempre ragione. Però siccome è un sistema che funziona di per sé, cioè nel senso che funziona così e basta, e dal momento che tu sai come funziona, hai anche una capacità di usarlo diversamente, se vuoi. Sì, però io dico, potremmo anche cercare delle strategie alternative. Diciamo che dopo questa ricerca la nostra posizione un po' su Google è, e su tutti gli Google dico per dire gli strumenti di ricerca sul web, funzionano estremamente bene quando si tratta di ricercare in quelle che chiamiamo risorse strutturate, cioè vocabolari, enciclopedie o cose che si sa già che sono così. Cioè, se tu vuoi sapere dove sta il lago di Lugano, cerchi sull'Atlante. Se l'Atlante è stato digitalizzato, tu lo cerchi lì e lo trovi, e sei sicuro, e vai sereno, no? Però, e quindi, se questa risorsa strutturata funziona benissimo, ma se l'obiettivo di fare una ricerca, perché poi di questo si parla, quando stai sul web generalmente vai in giro a fare delle ricerche, no? Cerchi delle cose, passi da una cosa all'altra. Ma se l'obiettivo di questo tuo girovagare, navigare, non è sapere esattamente, cioè tu non sei sicuro che esiste quello che stai cercando, no? Mi piacerebbe sapere se c'è un centro sociale in Patagonia. Cosa faccio? Metto su Google centro sociale in Patagonia? Ma come si dice centro sociale in spagnolo? Ma parleranno spagnolo in Patagonia o aymara? Non lo so, cioè butto lì, no? Cioè, se non sono sicuro che qualcuno, Google, ha già conosciuto quella cosa, è indicizzata e quella risorsa appunto è strutturata, come si dice in gergo, io quella cosa lì non è che non mi serve a niente, forse lo trovo, ma non è ergonomica, cioè è come dire, è come usare un fucile per sparare le mosche, cioè non funziona bene. È meglio fare per noi quello che si è sempre fatto, cioè comincia a chiedere ai tuoi amici, e quando avrai chiesto ai tuoi amici, chiedi agli amici se hanno degli amici che conoscono degli amici, che cioè i legami deboli sono molto più forti della tecnica delle macchine. La tecnica delle macchine è utile nel momento in cui ci siamo messi d'accordo su che cosa vuol dire, su che cosa sono i vocabolari, le risorse strutturali, no? Quindi tu hai il tuo bel vocabolario, vuoi ricercare una cosa, ci vai a colpo sicuro. Ma se una cosa non ci siamo ancora accordati, bisogna trovare degli altri metodi, no? Il nostro metodo qui è fare... facendo una ricerca, però devi pensare tu cosa potrebbe... Esatto, certo. ...portarvi vicino a questo centro sociale in Patagonia. È per quello che è attivo. Cioè, Google, tu sei lì, clic, bram! 1,5 milioni di risultati in 12 secondi, cazzo. Guardo solo i primi tre, no? L'ha scelto lui. Voglio arrivare lì, cioè, se voglio arrivare lì, devo anche alzarmi, capire, guardarmi in giro, ragionare. Non è detto che questa cosa abbia a che fare col computer, no? Potrebbe anche avere a che fare con molte altre cose, però d'altra parte il computer è per mettersi in contatto, non almeno è un elettrodomestico alla fine, andrebbe usato come tale, non per me, poi non lo so. Attivo. Per me, guarda, cioè il computer nel senso, a parte il computer come elettrodomestico, ma appunto il computer nel senso di rete è comunque ambivalente, perché come dicevi, presupponendo che ci sia un qualcuno. È ambivalente, cioè, perché apri una finestra sul mondo e il mondo entra a casa tua. E questa cosa qua, no, generalmente. Ma tu ti apri la finestra sul mondo, però qui. Nel senso, loro raccolgono un casino di informazioni, diciamo così, da una parte si raccoglie un sacco di informazioni, d'altra parte il singolo utente ha la possibilità di accedere, scambiarsi e trovare informazioni che sennò sarebbero impossibili, proprio totalmente impossibili. Però sai, quando tu, se tu chiedi a un tuo amico di farti vedere i suoi preferiti, che è come dire, quando vai a casa di qualcuno, per me faccio una paragone così, come dire, vai a casa di qualcuno che non vedi mai e vedi che libri c'ha nello scaffale. Cioè, è un mondo quello. E questa cosa qua si potrebbe fare in realtà attraverso la tecnologia. Cioè, è vero che la rete ti dà delle possibilità enormi. È anche vero che in questo momento noi utenti ci stiamo mettendo un po' nelle condizioni di dire, vabbè, questo mondo è talmente sconfinato che per favore, per evitare di perderci, non è che ce lo ordinate voi, perché noi ci perdiamo. Quindi io capisco che questa cosa qua sia umana, comprensibile, non lo so, però mi piacerebbe che ci fossero delle alternative. Ci sono delle alternative in realtà, perché non è che non... Indie Media è una di queste alternative. chiaramente. Lo dico perché anche sulla chiusura del libro, noi, visto che appunto c'è un po' quest'idea, viene fuori senz'altro questa ansia del controllo, cazzo, cioè, ci sono molte vie di fuga in realtà, cioè qualsiasi cosa può essere presa come una via di fuga. L'idea che invece di avere un'informazione oggettiva che te la dà una macchina ed è così, tu hai un'informazione completamente soggettiva, dichiaratamente soggettiva, della gente che si mette lì e dice: per me le cose sono andate così, buona, se ti va bene leggi, se non ti va bene non leggi. Per me questo è indie media ed è una cosa che ha un valore politico inestimabile, chiaramente, perché invece di delegare l'informazione a un'autorità oggettiva, tecnica o istituzionale o quello che vuoi, è una presa di responsabilità diretta da parte di persone, gruppi, collettivi che dicono: per me bisognerebbe, cioè le cose sono diverse. E riportare le persone, la soggettività al primo posto in un mondo che sembra sempre più tecnologico da una parte e dall'altra peggio che tecnologico, perché la questione della statistica è che quella, per me l'idea che passa attraverso la statistica è peggio dell'idea che passa attraverso la tecnologia, perché è un'idea, l'idea di massa è quanto di più da una parte soggettivo perché è fatta di persone, ma dall'altra parte oggettivo e disumanizzante che esiste. Cioè si controllano le masse, le persone è difficile controllarle. Quando una persona è persona è molto più difficile. Quando una persona fa parte di una massa, vabbè. Cioè, nel senso, è un po' relativo sempre, e sono d'accordo, però nel senso, cioè... Ma bisogna fare qualcosa. Qui agiamo, intenziamo e tutto quanto, e non è... Cioè, sì, la persona è in quanto individuo, per quanto persona... Ma può sempre diventare collettivo. Essere, sono sempre immerso in un prologo. Sì, ma può sempre diventare collettivo, cioè l'idea base di scrivere libri con Ippolita era questa, di dire anche agli altri, soprattutto agli altri, altre persone intendo, i lettori, che come noi non siamo degli specialisti di Google, ci siamo messi lì, certo c'è uno che è un coder serio, si occupa di codice, scrive programmi informatici, io mi occupo di editoria, un altro si occupa di giornalismo, di comunicazione, abbiamo delle competenze specifiche. C'è un oggetto che ti interessa, questo oggetto te ne puoi far carico, cioè puoi maturare un percorso che non è più personale, perché questo percorso del gruppo non è più una cosa come dici tu, vabbè, ma io sono da solo, cioè alla fine sono immerso nel brodolo di cultura del mercato e mi piglio quello che c'è. No, non lo dicevo in quel senso, non lo dicevo nel senso che io come individuo dentro le prose, per quanto io possa ragionare, mettiamo, cioè non so come esprimermi, fuori dal mazzo, per quanto possa essere una persona compiuta e non so che cazzo, comunque i miei ragionamenti, il modo in cui io appago questi morbosi desideri o non so che cazzo, sono influenzati da tutto il brodo. Cioè, questo è un bene, non è un male. No, lo so, ma appunto, ma un essere cosciente fa sì che tu puoi prenderti internet e dire: non vedo i libri del mio amico, ma io cerco un libro su quel cazzo di argomento lì, vediamo se in tutto quel cazzo di cose che ci sono citate in giro del mondo c'è qualcosa di quell'argomento lì. Poi magari leggendo quel libro lì ti dici: ah cazzo, non parla di questa cosa, chissà mai se cioè, esistono libri su questa cosa che non sapevo neanche che esistesse. Cioè vai in questo senso, no, che ti dicevo che no. E infatti non so come chiamarlo, chi detiene queste informazioni, chi raccoglie queste informazioni, c'è anche un dibattito, nel senso che c'è anche una parte di persone che preferirebbero zittirla in un certo senso, perché dicono la raccolta di informazioni non vale la possibile fuga in un certo senso di informazioni, il non più controllo come adesso c'è nei media ufficiali, no? Ma secondo me il problema è che prima si diceva che bisognava essere in rete per essere qualcuno. Infatti adesso se non sei in rete, non sei indicizzato da Google, non sei comunque nessuno, perché c'è talmente tanta informazione che comunque tu vieni perso. Ed è la stessa cosa, cerchi il centro sociale in Patagonia e Google non te lo indicizza, tu non ci sei, non esisti. Il fatto che Google è qualcosa di estremamente soggettivo, perché loro con il loro algoritmo di PageRank decidono loro come indicizzare le cose. E questo però loro la vendono come una cosa oggettiva. Cioè il primo elemento che esce da Google è quello. E se io scrivo una stronzata su un certo argomento di identità come prima cosa, un casino di gente penserà che quella cosa corrisponde a quello perché lo dice Google. Per me questo è un po' il problema, perché internet senza Google sarebbe veramente qualcosa di assolutamente inutilizzabile, perché ci sarebbero talmente tantissime informazioni. Non so. Sì, lo si potrebbe utilizzare molto meno perché andresti ad esempio tramite link di conoscenze, eccetera, però non avresti non potresti fare delle query su un database, è quello che non potresti fare. E quindi le informazioni sarebbero più difficili da cercare. Il fatto che Google ti permette di cercarle, ma però devi renderti conto che sono soggettive e non oggettive. Certo, questa è sicuramente la prima cosa. Sapere che quello che dicono loro non è la verità, ma è una possibile verità, è la prima cosa. Non è che non sia vero, è che è una visione delle cose. Sul fatto che senza Google non potremmo fare niente, cioè sarebbe meno intasato. Poi cioè il problema non è, per me almeno, non è mai avere, cioè togliere di mezzo uno strumento, ma creare nuovi strumenti migliori, strumenti che servono a me, perché funzionano, gli altri motori di ricerca funzionano tutti uguali, funzionano più o meno uguali, ma meno bene. Dove con meno bene si intende che sono arrivati dopo, oppure sono arrivati prima, non sono riusciti a attirare quella massa critica che ha fatto sì che Google sia diventato il motore di ricerca. Cioè, Google funziona più meglio, cioè nel senso che lo fa partire un po' tutto, che tutti lo usano. Sì. Certo, il motivo è che funziona meglio. Non è che è conosciuto perché tutti lo cercano. Però le cose vanno di pari passo, cioè. Funziona meglio nel senso che il loro algoritmo di PageRank, che è quello che dicevo prima, è. Cioè, allora, c'è stato questo viene spiegato nella prima parte del libro, c'è stato un momento sul web, perché noi diciamo internet, ma in realtà qui parliamo più che altro di web, ok? Poi internet è una cosa più grande del web. Il web, che sono le pagine HTML, quelle che vediamo quando navighiamo, in cui, se vi ricordate, c'era Altavista, quelle cose lì, che erano piene, fitte di banner, cazzate, cioè una cosa indicibile. Quando è arrivato Google, cosa ha fatto fondamentalmente? Due cose. La prima è un miglioramento tecnico enorme, che è stato il PageRank, che è un algoritmo che ha tutta una procedura tecnica, ma fondamentalmente si basa sul concetto che un link è un voto. E quindi loro dicono, noi facciamo la democrazia del web. Più una risorsa è linkata, significa che più una risorsa è votata. Quindi l'università di Salamadonna è la più importante. Perché? Perché se tu cerchi quella, se tutti cercano quella, vuol dire che è la più importante, ok? Prima cosa. E questo è un miglioramento tecnico. Mentre gli altri, per esempio Yahoo, indicizzava a mano, non proprio a mano, ma insomma c'erano delle persone anche che si occupavano di dire, ok, allora questa risorsa è stata indicata dai webmaster come una risorsa che riguarda poltrone, quindi la indicizziamo nella categoria arredamento, e quindi tu andavi nelle categorie. Certo che se il webmaster era il furbetto in realtà non vendeva poltrone, ma vendeva il solito figa cazzo tette, no? Perché poi questo che è successo, che uno cercava una cosa e trovava un'altra, perché chiaramente il 60% di internet è porno, e quindi questa cosa faceva gioco fondamentalmente. Questo è stato il motivo tecnico principale. E che erano più veloci, l'algoritmo è più veloce, funziona meglio, indicizza meglio. Il secondo motivo è stato la sobrietà, cioè prima di Google c'era l'horror vacui, abbiamo paura del nulla, mettetemi tante cose su internet, sulla pagina. Loro all'inizio, perché adesso già non è più così, ci sono un fracco di cose che vengono fuori, ma all'inizio era proprio scarno, no? Colori base, quattro colori primari, E loro dicono, a noi piace l'idea che gli utenti vengano sulle nostre pagine e se ne vadano nel minor tempo possibile, cosa che all'inizio era vera, adesso un po' meno, perché come abbiamo visto, se sei YouTube sei su Google, se sei su quella, cioè gira e rigira, tu non stai girando, navigando veramente su internet, stai navigando più che altro nella rete di Google, che è una porzione significativa e fondamentale di internet, ma non è tutta, cioè... Devo dire tutta questa cosa che ha fatto il successo, comunque quello che hai raccontato tu adesso, che avevano una grafica così semplice e che avevano un algoritmo veloce, ma se faceva sì anche che quando loro sono usciti, la maggioranza della gente andava in internet con i modem sulla linea telefonica, cazzo, quindi avevi una differenza, certo, della Madonna, tu cliccavi e usciva la fino ai risultati, con gli altri cliccavi e aspettavi. Comunque adesso gli altri motori di ricerca fanno quello che vale per Google, vale per tutti, dal punto di vista della profilazione loro la fanno meglio, ok, però vale per tutti gli altri, a maggior ragione per cose più volontaristiche tipo Facebook, che lì veramente è una schedatura di massa volontaria, cioè in realtà su Facebook ci sarebbe da dire altre cose, nel senso che dietro Facebook, dietro Google c'è un progetto di due smanettoni che hanno deciso che loro volevano essere più fighi del mondo, mettere dentro tutta la conoscenza, c'è anche un progetto molto occidentale dietro, no? Cioè tutta la conoscenza noi la mettiamo nei computer e tutti potranno accedere immediatamente a quello che vogliono, c'è un concetto di dominio della conoscenza che è molto occidentale, proprio nell'idea di scienza, di perfezione scientifica occidentale. Però non c'è un programma politico dietro Google, poi ci sono arrivati capitali, finanziatori, eccetera. Mentre dietro Facebook c'è un progetto politico neoconservatore, molto, dal mio punto di vista, cioè, una cosa al di là della comprensibilità, è il progetto di un gruppo, nasce come anche lì smanettoni, che non è che ragazzini, che si mettono dietro e dicono facciamo il libro delle facce degli accademici, degli universitari, in modo che quando facciamo le feste poi metti su quello che è successo all'altra festa, ed era quello che lo chiamavano un meccanismo di dating, cioè per fare appuntamenti, metti sul tuo profilo, le ragazze lo guardano, siamo nei campus universitari e quindi è più facile conoscere ragazze, è nato così Facebook. Quando è cominciato a diventare una cosa grossa sono arrivati i finanziatori, ma non erano finanziatori qualunque, non erano i cosiddetti venture capitalist, il capitalismo di rischio così, della Silicon Valley, erano capitalisti di rischio con un progetto politico dietro, che è specificato, ci sono un po' di articoli che vi posso passare, in italiano non lo so, ma forse anche sì, un progetto politico che mira alla costituzione di gruppi omogenei, ok? Cioè, non... dal lato degli utenti lo strumento è pensato in modo tale, tutte le cose che sono venute dopo su Facebook, tipo il tagging, che non è una cosa che è nata, che c'era da subito, sono pensate per fare in modo che si sviluppi all'interno di una community cosiddetta, una comunità virtuale, un meccanismo di controllo reciproco fra simili, non fra affini, dove c'è una grande differenza, cioè un gruppo di, voglio dire, il Molino è un gruppo di affinità, se vogliamo fare delle categorie sociologiche a cazzo, cioè delle persone che hanno un progetto qualsiasi, che può essere bersi una birra o fare un'attività o quello che volete, attività politica di un altro tipo, e si trovano per una ragione specifica, ok? Gruppo di simili è completamente diverso, cioè non ha un fine esterno a sé, ha un fine completamente interno, che è quello di star bene tra di noi, se vogliamo dirla così, come che è coltivare, si dice, ci sono degli studi sociologici che parlano di sala da omofilia, cioè stai solo con i tuoi simili su Facebook, è una cosa che è pensata appositamente per quello. Ora, io non dico che questa cosa qua sia il male assoluto, dico semplicemente che dal punto di vista della profilazione è la cosa peggiore che sia mai stata inventata, cioè a confronto Google sono dei liberal, è gente di sinistra, ok, a confronto di Facebook, per dirla tutta, e fanno affari col governo cinese, per dire, Google, Facebook molto peggio. Dal punto di vista delle persone, quello che mi preoccupa a me, ciao, grazie, Quello che mi preoccupa molto è il fatto, ciao, è il fatto che se tu hai una vita sociale molto sviluppata, attiva, quello che è, effettivamente Facebook ti può anche servire per metterti in contatto con delle persone che vedi tutti i giorni. C'hai un contatto continuo, divertente, stai con i tuoi amici, veramente, funziona. Ma se tu hai 12 anni e di fatto non conosci nessuno, con chi stai su Facebook? Cioè, Facebook è in grado di mescolare la sfera molto più di Google, già Google lo fa, con Gmail e con tante altre cose, ma Facebook molto di più mescola la sfera del privato e del pubblico. Cioè, non si capisce che cosa è privato e cosa è pubblico su Facebook. Se tu metti le foto di quando ti sei ubriacato ieri sera, perché era molto figo quello che hai fatto ieri sera, cioè, di fatto quello non è uno spazio privato, è uno spazio pubblico, molto pubblico. Puoi andare a vedere chi sono gli amici dei tuoi amici. Magari c'è gente che ha 300 amici, 400 amici, cioè, è una cosa che incita al voyeurismo, fondamentalmente. E da una parte incita al narcisismo, cioè, ma li sfrutta. E, sì. Non è che, cioè, sì, chiaro, lo incita perché ti deve far partecipare in quel senso, ma quali sono i drive, cioè sono le spinte che usa per far sì che tu ti ci metti. Poi c'è da dire che in realtà Facebook, a differenza di Google, non ha ancora un modello di business, come lo chiamano loro, che funziona. Cioè, al momento Facebook perde e basta. Quindi sono, non dico in crisi, perché certa gente non è mai in crisi, però devono trovare il modo di far grana a questa cosa. E la risposta sarà una, pubblicità. Non ci sarà un'altra risposta. A meno che si mettano a vendere i vostri dati domani mattina, che potrebbe anche essere, perché non ci metterei la firma, però non hanno ancora trovato il modo, e probabilmente sarà pubblicità. E appunto io vedremo. Io non credo che sia basato tutto. No, ma su Facebook sono d'accordo, c'è un progetto politico preciso alle spalle. Cioè, io non penso, non sono quello. Però, boh, nel senso, non è che lo so perché. Lo leggo da come io vedo come sono stati portati avanti e come influiscono sulla gente. Sì, sì, ma poi è possibile che mi sbagli. Nel senso, le dinamiche, anche questa cosa di Facebook, dei gruppi, diciamo così, dei gruppi che hanno degli stessi interessi o delle fasce d'età. Cioè, sono cose che sono già state usate ancora prima dei computer. Cioè, la propaganda è sempre parlando su queste cose qua. Cioè, per influenzare un determinato gruppo, quando tu conosci il gruppo, lo influenzi senza che il gruppo se ne renda conto. Sul fatto che non se ne renda conto, io penso che comunque gli utenti tutti, compresi assolutamente quelli che usano il Facebook in maniera maniacale, non che ha un account, ma che lo usa in maniera maniacale, tutti hanno un livello di consapevolezza che io non sono in grado di capire, in realtà, di capire nel senso di comprendere veramente. Voglio dire che come chi va a fare la spesa al supermercato agisce in un modo che chi fa marketing può cercare di intuire, prevedere, indirizzare, ma in realtà siamo ben lontani, per fortuna, da un controllo granulare al punto della persona, anche su Facebook e su tutte queste cose, siamo lontanissimi dal controllo granulare. Io spero di sì, io sono convinto che ti dicono che cosa devi fare. Oggi come individuo, no? Ma il gruppo funziona. Sì, il gruppo funziona, ma il gruppo non al 100%, funzionerà all'87, con... Sì, ma a un certo punto dico anche non me ne frega neanche più di tanto, cioè se ti va bene essere parte di un gruppo va bene così a un certo punto. Cioè non solo non posso andare d'accordo con tutto, io faccio libri. Quando faccio un libro, se vendo 1000 copie, mi ritengo fortunatissimo perché sono riuscito ad arrivare a quelle 1000 persone che avevano interesse a leggere magari un mattone di filosofia politica che nessuno si sarebbe, non mi sarei mai aspettato che si leggessero. E sono, quindi voglio dire, è chiaro che si lavora sulle nicchie, però d'altra parte la cosa notevole di questa faccenda della tecnologia per me è che anche loro stanno lavorando sulle nicchie, anzi soprattutto loro stanno lavorando sulle nicchie. Cioè il discorso della pubblicità, se la pubblicità è la punta più avanzata del capitalismo, io penso che lo sia, nel senso che è la benzina del capitalismo, è quello che serve per far andare avanti la macchina, e la pubblicità non è più nelle mani dei grandi gruppi, ma è nelle mani di milioni di inserzionisti. Questo è un segnale per me che veramente le nicchie contano qualcosa. È chiaro che io non penso di cambiare le cose solo perché posso influenzare questa o quella nicchia, penso però che un numero di nicchie, intendo non nicchie come intendono loro, cioè gruppi di persone omogenee che pensano allo stesso modo e gli si può dare a tutti un bel prodotto serializzato apposta per loro, ma nicchie nel senso di gruppi di affinità, questa cosa è la base comunque. Cioè io non voglio governare le masse, non me frega un cazzo, e quindi qualsiasi progetto politico deve passare per queste, per le forche caudine del controllo delle masse. Puoi decidere se vuoi controllare le masse oppure vuoi spezzare le masse, vuoi che le masse non esistano più, e se scegli la seconda poi non è che poi ti puoi lamentare perché però gli altri non la pensano come me, per fortuna che gli altri non la pensano come me, no? Detto questo, c'è un sacco di da fare, cioè bene che ci sia un sacco da fare, non... Io voglio dire ancora qualcosa, te lo dico dopo perché però no, non so se vi aspettavate di quella cosa facciamo, cioè, quello che non piacerebbe è metterci a scrivere qualcosa, cioè quello che ci ha divertito, ci ha fatto estremamente piacere che alla fine di questo percorso è successo che delle altre persone sono venute a chiederci: anche noi vorremmo scrivere una cosa che non c'entra niente con i computer, l'informatica, come si fa? E lì è partito tutto un discorso, e questa è la cosa divertente, no? E questo è un metodo che è portabile in realtà in qualsiasi situazione in cui ci sono un gruppo di persone che hanno un oggetto di ricerca che può essere anche interno, no? Olmo prima mi diceva che volevano fare o stanno facendo una traduzione. Questo è una ricerca, un oggetto, una cosa da costruire, un testo, e si può fare in una maniera che sfrutti le competenze di ognuno e nello stesso tempo dia ad ognuno il senso di partecipare a un progetto collettivo, di scrittura. Questa è la cosa che si può fare per me, e non è poco. Scusami, ti ho... Per me è stato interessante perché sono cose che un po', se uno non ha studiato queste cose, non ci va dietro, a volte le intuisce, o hai delle domande, penso che è importante essere consapevoli. Come dicevo, non credo che uno può resistere solo facendo, usando Scroogle, queste cose. No, certo. Allo stesso tempo però ci sono delle cose che disturbano. Per esempio, io dubito che per esempio la CIA o la Securitas, cioè queste cose, se queste tecnologie ci sono e non le hanno già usate. Se schedare tutto il mondo è facile, no? Cioè, ci vuole basta un computer e quello che vuoi. E chi se ne frega se ti schede, cioè, forse l'apertura e la difesa migliore. Però ci sono anche situazioni, anche casi che ho conosciuto io, dove c'è gente che ci è andata di mezzo tramite informazioni che hanno su di loro, così. Quindi se tu fai qualcosa di un po' sovversivo, fuori dal normale, ti esponi anche queste cose, diventano cose più importanti. Sì, comunque sono convinto che la miglior difesa sia l'attacco, nel senso dell'apertura, cioè è chiaro che se sei già in pochi, pensare che meno saremo controllabili, cioè non solo non si va da nessuna parte, ma è esattamente il gioco, giocare il gioco del controllo, cioè. Per me, per noi, da una parte la risposta è quella più caos, nel senso di dai, cioè, ce n'è di cose che si possono fare, non è che siamo qui a... non siamo in guerra, non si soffre la fame, ci sono un sacco di cose fantastiche che si possono fare. È vero che la differenza col passato, se vuoi, rispetto a quando non c'erano questi strumenti, è che adesso la schedatura non la fanno più loro, la facciamo noi. Beh, questo è il problema, che non dico che siamo complici, però siamo parte attiva in causa nella raccolta, nella schedatura, e questo è un grosso problema, perché questo mi piacerebbe riuscire in qualche modo a mettere insieme delle cose, delle idee. Una cosa che c'era stata chiesta, che vorremmo mandare avanti, è il ragionamento sul controllo. Spesso viene fatto passare dalle istituzioni come una cosa che garantisce la sicurezza, no? Cioè, la popolazione richiede sicurezza, che non si sa se è vero, ma ammettiamo che sia vero. Cioè, ci si sente più insicuri. Questo in Italia proprio è una delle cose proprio che si sentono in continuazione, la gente insicura. La risposta cos'è? Aumentiamo il controllo. Ora, a me piacerebbe fare una ricerca, un po' di cose l'abbiamo già raccolte, sul fatto che sicurezza e controllo sono due cose che non hanno nessuna relazione. Anzi, spesso la sicurezza è l'opposto del controllo. Però c'è anche da dire che questi strumenti tecnologici, per come sono stati impostati e per come ci insegnano ad usarli, e non è che ce lo insegna Google, ma ce lo insegna la vita di tutti i giorni, funziona esattamente in questo modo, cioè fanno finta di garantirti la sicurezza attraverso il controllo. Faccio un esempio, la carta di credito. Cioè, quando tu usi la carta di credito, dici su internet, dici, ma sarà veramente sicuro? E la risposta è una, no. Ma non è che non è sicuro, è proprio la cosa più insicura che esiste, ok? È una cazzata rubare una carta di credito su internet, ci sono siti con tonnellate di numeri di carta di credito. Allora, un'altra domanda, ma allora, se è così insicuro, nessuno lo dovrebbe fare. La risposta loro è stata, aumentiamo il controllo. Infatti, è vero che è totalmente insicuro, ma è talmente controllato che se è facilissimo rubare una carta di credito, è praticamente impossibile che non ti beccano. Quindi, di fatto, il livello di sicurezza è garantito da un controllo strabiliante. Cioè, entrare nel sistema è facilissimo. È uscire che è totalmente impossibile. Perché? Perché siamo tracciati, ok? Il livello di profilazione è talmente esagerato che questa cosa qua non è che non si può fare, si fa, ma poi ti vengono a prendere, lì sì che ti vengono a prendere, quello che dicevo, quando diventi abbastanza interessante ti vengono a prendere, no? E c'è anche un'altra cosa, che la propaganda tipica del securitarismo è: se vogliamo garantire il nostro livello di benessere dagli attacchi, dobbiamo essere più controllati. Ora, è dimostrato che nessun sistema di controllo garantisce un cazzo di niente. Anzi, i livelli fisici sono talmente lontani dal poter essere controllati, con la faccenda della libera circolazione di qualsiasi cosa, che comunque è molto lontana dall'essere libera, ovviamente, che voglio dire, tu puoi avere una telecamera in ogni angolo di strada e se uno va in giro con una bomba nella valigetta 24 ore, nessuno lo becca, capito? Cioè, questo è il livello, che le telecamere aumentano il fatto che tu ti guardi in giro così, però dall'altra parte non solo non garantiscono niente, ma semplicemente ti fanno stare sempre più a spiarsi l'uno con l'altro. Cioè, quindi su questa cosa qua sarebbe interessante radunare... quello che dicevo prima, per me, del fatto del controllo, del fatto di come usare le cose, appunto, allora se vuoi, potrebbe essere una battuta, come dire, se usi Google per cercare qualcosa, strafottatene, cioè nel senso, usa il meglio che vuoi tu. Poi, se vuoi usare, cioè proprio, se vuoi scrivere colomba dell'email, a me, anzi, lo metto magari prima dei saluti, così ce ne giro 10 milioni, non lo so, però se una volta voglio dirti una cosa che voglio che la sai tu, non uso la rete, come una volta parliamoci, dicevo, se infatti, non parlare di questo non c'è il telefono. Ma questo è sicuro, cioè questo è proprio. Questo. Se voglio saperti dirti una cosa sulla te, ti telefono e ti dico, ci becchiamo e poi te la dico. Sono d'accordo, assolutamente. Però non mi sento tanto di aver qualcosa, piuttosto di aver qualcosa da nascondere, l'idea di scrivere insieme era proprio quella di dire, non è questione che abbiamo qualcosa da nascondere, ovviamente abbiamo qualcosa da nascondere, fuori discussione. Non fosse altro perché l'ultimo che mi ricordo che ha detto se non avete nulla da nascondere non avete niente da temere è stato Göring agli ebrei, capito? Quindi questo è proprio certo, che da nascondere tutti ce l'hanno ed è bene che abbiano da nascondere, perché è sbagliato pensare che ciò che è privato può essere pubblico. Cioè, solo gli uomini politici negli Stati Uniti fanno che tutto ciò che è privato è anche pubblico, e si vede i bei risultati, no? La costruzione di identità fittizie per gente che governa il mondo, no? Però l'atteggiamento contrario è quello di dire io voglio dire qualcosa, quello che dico io è il mio punto di vista, il mio punto di vista è il mio libro, è il mio software, è il mio modo di essere, il mio modo di pensare, il mio modo di fare, cioè il mio modo di agire. Boh, vediamo, cioè se anche altri lo faranno meglio. Tutto lì. Non so se c'è il concerto, è già iniziato, è già finito. Abbiamo sforato, sforatissimo. No, no, lo sentiamo. Ah, ok, no, non volevo. Beh, non so se vi posso raccontare quello che volete, posso andare avanti all'infinito, però non vorrei rompervi eccessivamente. Io se mi lasci, avevi parlato di documenti che parlavano, mandateci una mail, abbiamo detto su chi si c'è inventati su social bookmarks un account con il LIP, se ci dai link, se sono in rete li possiamo mettere lì, così forse sul link, computer forse addirittura sì, sul computer ci ho attaccato, ci ho aperto su una pagina perché stavo facendo oggi una roba. E poi un'altra cosa è come si connettono, perché in realtà adesso uno dice vabbè scritture collettive, ma che cazzo si metterà mai a scrivere qualcosa, che è anche vero tra l'altro, perché è incredibile scrivere insieme. Però c'è una cosa che è un po' più semplice che scrivere insieme, che è mettere insieme le nostre risorse, no? Che vuol dire, un conto è dire qual è il percorso che fa Google, qual è il percorso che ci propongono, quali sono le notizie che ci selezionano. Un altro discorso è quello di Indymedia, fatto a un altro livello, che è che cosa piace a noi, no? Quindi io posso mettere insieme le cose che interessano a me, dirtele a te, e fosse anche solo i miei autori preferiti, le cose che... il mio modo di vedere le cose, non è una cosa da poco. Questa cosa